piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Stiamo rinforzando il piano natalizio, spiega Conte. Gli esperti ci hanno consigliato qualche opzione aggiuntiva per arrivare a gennaio in condizione di massima resilienza. Dal 24 dicembre al 3 gennaio e forse anche il 6, nei giorni festivi e prefestivi, l'Italia potrebbe essere tutta in fascia rossa. Calendario alla mano a partire dal 24, vigilia, 25 e 26 dicembre, Natale, Santo Stefano, domenica 27, poi ancora mercoledì 31 dicembre, giovedì 1 gennaio, sabato 2, domenica 3, il paese tornerebbe in lockdown. Ci si potrà muovere soltanto per comprovati motivi di lavoro, salute e urgenza. Si starebbe valutando anche l'ipotesi di chiudere tutto per 8 giorni, come in Germania. La decisione ufficiale attesa per oggi, con un nuovo vertice tra Conte e capi delegazione della maggioranza, dove a sostenere la linea dura sono soprattutto i ministri Speranza, Boccia e Franceschini. Una volta ci si allarga, poi ci si restringe, c'è un po' questa strategia elastico, ma bisogna tener conto comunque, mi rendo conto, degli umori comuni, delle diverse opinioni, della pretesa di avere libertà di scelta. E cito a proposito delle persone che invocano la loro libertà rispetto alle misure di cautela anti-Covid-19, la maestra di Treviso, che era stata assunta proprio per il decreto Covid, che si è procurata una protesta dei genitori. I genitori evidentemente hanno un'attenzione maggiore, perché stava in qualche maniera facendo passare con i bambini che aveva in carico l'idea che la mascherina non servisse, che si può togliere, che il virus non esiste, muoiono soltanto i vecchi, la nostra libertà va difesa. La maestra andava a scuola senza mascherina, con un certificato medico, che lei era fastidiosa. Poi hanno visto che partecipa attivamente a gruppi negazionisti, il termine è questo, inutile, vi stracciate le vesti e invocate una correttezza lessicale, che in realtà non è il caso nemmeno di approfondire in questo momento. Negazionista chi in maniera criminosa fa passare l'idea che sia tutta una grande costruzione, una fantomatica idea di dominio, di controllo, perlomeno di mantenimento del potere da parte di chi governa. Noi oggi rinnoviamo una tradizione che stiamo in qualche maniera osservando per quanto possibile tutti i giovedì. Il giovedì esce il rapporto settimanale della Fondazione Gimbe, ricordo che è un gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che promuoveva ancora prima che esistesse l'idea del Covid l'integrazione per migliorare l'evidenza scientifica, e quanto questa poi influisce nelle decisioni politiche, manageriali, professionali, insomma quanto la salute è messa in rapporto con i problemi della società e i problemi dell'economia. Argomento scottante e fondamentale in questo momento. E come ogni settimana ho con me il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Buongiorno dottore. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Specifico, anche è stato detto più volte, Cartabellotta è un medico, a sua volta, oltre a essere presidente della Fondazione Gimbe, è un medico, quindi parla con contezza di giudizio rispetto a quello che dice. Penso Fondazione Gimbe segua l'evento Covid sin dagli inizi con i suoi rapporti puntuali. Cartabellotta, solo per dare un dato iniziale agli ascoltatori, più o meno puoi darmi un numero di quante volte avete fatto un rapporto, o da quanto tempo fate un rapporto esatto ogni settimana sull'andamento e sui flussi del virus? Ma guarda Gianluca, noi abbiamo iniziato con i rapporti periodici settimanali ai primi di aprile, quindi non ho il numero esatto, ma considerato che esce ogni giovedì e non ne abbiamo saltato nemmeno uno, nemmeno durante il periodo estivo, quando un po' tutti erano quelli del virus clinicamente morto, siamo a circa 35-36 report settimanali. Ecco, però una cosa adesso te la devo chiedere, visto che ci sentiamo ogni settimana. C'è mai stata una contestazione ufficiale? Qualcuno ti ha detto: Cartabellotta, i tuoi numeri sono sbagliati, le tue interpretazioni sono basate su basi scientifiche non corrette. Hai mai avuto contestazioni ufficiali su quello che hai detto? Assolutamente no, non è mai successo che le istituzioni o comunque la politica abbiano contestato i dati da noi riportati. Può esserci stato qualche refuso, diciamo, segnalato da qualche giornalista che abbiamo corretto, piuttosto che commenti social che, come sappiamo, voglio dire, sono legati più all'interpretazione dei numeri che non alla loro oggettività. Quindi questo lo dico per fare la premessa che la fondatezza scientifica delle analisi della Fondazione Gimbe, che si basa su dati ufficiali, non è che poi i dati se li inventa, finora è stata incontestabile. Quindi quello anche che diremo oggi, che probabilmente andrà controcorrente rispetto il desiderio di molti di noi di passare un Natale tranquillo e sereno, è ahimè basata, purtroppo ci piaccia o no, sulla certezza scientifica. Allora, ti faccio domande molto, molto, molto semplici, in modo che al di là della difficoltà di interpretare i dati la gente capisca subito. In che punto ci troviamo? In che stazione ci troviamo? L'ultima volta ci siamo sentiti e tu avevi detto, carta bellotta, che avevi molte perplessità su questa apertura e su questi cambi di colore e sul fatto che per Natale si prevedesse un'Italia tutta gialla. Ti ho detto stiamo molto attenti, mi sembra che la realtà dei fatti ti abbia dato ragione, perché oggi c'è una dolorosa ma penso necessaria retromarcia rispetto all'idea di apertura. Vediamo di dettagliarlo un pochino più sui dati che tu hai messo a disposizione. Ma guarda, i dati che osserviamo settimanalmente sostanzialmente dimostrano che noi dai primi di novembre riduciamo quello che è il numero dei nuovi casi settimanali, però questa riduzione noi la dobbiamo sempre intendere come un minore incremento, cioè noi nell'ultima settimana, quella del 9-15 dicembre, abbiamo avuto 113.182 nuovi casi, quindi siamo ancora in una fase attiva dell'epidemia, ma soprattutto nelle ultime tre settimane quello che è il dato molto interessante è che a fronte di una progressiva riduzione dei nuovi casi settimanali, che sono passati da 166.000 a 136.000 a 113, è a fronte però di un rapporto tra positivi e casi testati che si mantiene stabile intorno al 24-25%. Quindi cosa significa? Vero è che i casi si riducono, ma è altrettanto vero che si riducono anche il numero dei soggetti che testiamo con i tamponi. Ecco, è sempre complesso spiegare la differenza tra tamponi e casi testati, ma il concetto generale è che i casi stanno diminuendo per effetto delle misure, ma di fatto in parte stanno diminuendo anche perché si sono fatti molto meno tamponi di quanto se ne facevano a novembre. Ecco, questo è un dato oggettivo difficilmente contestabile. A me altro dato oggettivo che non ci fa certo piacere è che l'Italia è al primo posto in Europa per decessi totali e per tasso di letalità. Questo un pochino, lo dice nel tuo rapporto in apertura, stride con l'idea che e stiamo reggendo bene questa seconda ondata? No, non la stiamo reggendo bene per niente. Ma guardi, tu sai che io dal punto di vista, diciamo, così anche delle libertà di espressione, proprio per l'indipendenza che caratterizza la Fondazione Gimbe, critichiamo anche quelle che sono delle espressioni, a mio avviso in questo caso molto poco felici, del Premier Conte, che ha affermato che con misure calibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata. Allora, se nella seconda ondata, che noi facciamo partire dal primo settembre, abbiamo fatto 31.000 morti e 20.000 nell'ultimo mese, allora mi chiedo, e nel frattempo, come giustamente dicevi, questi numeri ci hanno catapultato al primo posto in Europa per decessi totali da Covid, a ieri erano 65.857, per tasso di letalità siamo anche primi con il 3-5%, allora mi chiedo quali sono i parametri con cui si valuta questo reggere bene la seconda ondata con un numero così elevato dei morti. Una frase che prendo proprio da questo rapporto. Ma è una radio accesa per caso, Nino? No. Sento un po' di eco. Un altro dato che leggo è che sarebbe forse il caso, questo diciamo è la premessa un po' politica di indicazione generale, di ripensare questa fretta nell'allentare le restrizioni, senza aspettare prima ci sia una flessione reale dei contagi e uno svuotamento degli ospedali che sia sostanzioso. Insomma, tu dici molto chiaro che in questo scenario la serrata di Natale è l'unica possibilità per non affacciarsi al nuovo anno con ospedali ancora saturi e servizi sanitari che rischiano di andare in tilt. Ecco, vediamo di capire un po' meglio. Tu dici, non c'è da tanto da girarci intorno, faremo, non faremo, cambieremo. A Natale cosa bisognerebbe fare per evitare questo rischio oggettivo? Ma guarda, da tempo, da settimane, io ho sottolineo che il sistema a colori delle regioni andava molto bene per le chiusure, ma molto meno bene per le riaperture, perché poggiandosi prevalentemente sui valori del famoso indice RT ha permesso delle chiusure precoci, ma delle riaperture altrettanto precoci. Cioè le due settimane di permanenza di una regione all'interno di un colore non hanno permesso di stabilizzare né il numero dei nuovi contagi, né tantomeno lo svuotamento degli ospedali, per cui oggi noi ci troviamo alla vigilia di Natale a discutere se l'Italia deve diventare tutta rossa, se ci devono essere soltanto alcune giornate rosse, se deve essere tutta arancione, ma che di fatto significa sostanzialmente che quella ipotesi che si poteva arrivare al periodo natalizio con una tranquillità rispetto a quella che era la circolazione delle persone non si è verificato, primo perché le misure erano tutto sommato relativamente contenute, secondo perché di fatto le regioni dopo due settimane hanno cambiato colore, quindi da rosso sono diventate arancione e poi gialle e da arancione sono diventate gialle. Quindi quell'Italia tutta gialla di cui parlavo uno o due settimane fa anche con te è più frutto di un desiderata politica che il riflesso di una quella che è una realtà del quadro epidemiologico o in Italia in questo momento. Tu ti sei fatto un'idea di quanto possa essere dannoso questo passo avanti e passo indietro anche da un punto di vista proprio di tenuta sociale, psicologica, nel senso che il fine settimana si riapre, riescono tutti, poi dopo diventa colpa delle persone che vanno tutte insieme nello stesso posto, delle persone che non rispettano le regole, però alla fine ci troveremo più o meno in una situazione simile sotto Natale e non, ancora nessuno osa parlare di quello che sarà l'ultimo dell'anno, che è giornata tradizionale comunque di transumanza umana per le persone. Se per Natale in qualche maniera qualcuno si sta già facendo una ragione, sarà un po' difficile, già la gente sta prenotando gli alberghi, sta affittando le case per fare le feste di Capodanno. Perché? Perché alla luce di questo tiremolla tutti pensano che, come appunto la maestra di Treviso, in realtà possa esserci soltanto una volontà politica di restrizione per controllare, per mantenere le poltrone, tutte le banalità che si possono dire. In questo momento quale sarà l'unica cosa che effettivamente potranno fare in questa comunicazione che ci stiamo aspettando da un momento all'altro? Quando tu parli di serrata di Natale, in termini concreti cosa dovrebbe significare? Ma premesso che la serrata di Natale consegue un po' a quello che è la consapevolezza politico-istituzionale anche delle regioni, che come sappiamo nel corso di questi mesi sono state quelle che hanno un po' in qualche maniera ostacolato, voglio dire, le cosiddette ali rigoriste del governo. Però il problema reale è che in una situazione del genere non si può decidere di pancia, cioè queste continue indecisioni continuano a essere condizionate da conflitti istituzionali, da compromessi partitici, da reazioni emotive, cioè il cashback da un lato per favorire i consumi, però poi la preoccupazione perché la gente esce, l'affezionarsi al lockdown di Natale perché lo fa la Germania, cioè qua senza un piano strategico per tutelare la salute, per sostenere concretamente l'economia e per gestire anche le conseguenze sociali della pandemia, noi non andiamo da nessuna parte, perché noi ci stiamo accontentando, stiamo seguendo un po' il principio, il proverbio del meglio nuovo oggi che la gallina domani. I paesi più intelligenti invece stanno dicendo: se noi non superiamo la problematica sanitaria, l'economia non può ripartire. Quindi rinunciamo all'uovo oggi sapendo che possiamo contare su una gallina domani. Però Nino, questo è un discorso che si faceva già da novembre. Io mi ricordo, già da novembre si diceva, ottobre anzi, chiudiamo due mesi tutti dentro e poi vediamo, così passiamo un Natale tranquillo. Anzi, da ottobre si diceva. E non si è fatto. E ci troviamo di rimandare sempre avanti il problema con il rischio che, mi dici due cifre sui morti, perché è la cosa che tutti tengono un pochino nascoste sotto il tappeto, dei morti si parla poco volentieri. Ma guarda, come ti dicevo poco fa, noi abbiamo fatto nella seconda ondata 31.000 decessi, quindi tenendo conto che il numero totale, i decessi totali sono quasi 66.000, diciamo che stiamo raggiungendo già quelli della prima ondata e di questi 20.000 li abbiamo fatti nell'ultimo mese, quindi è evidente che questa seconda ondata sta avendo un prezzo importante in termini di vite umane. Il problema reale è che senza un piano, come ti dicevo, strategico, ma non solo a breve, ma a medio e lungo termine, io credo che le decisioni politiche rischiano di essere prese più di pancia che essere decisioni di tipo strategico, ma questo probabilmente è legato al fatto che complessivamente le decisioni politiche sono in qualche maniera prese da un sistema che è debole dal punto di vista della capacità e del potere di prendere decisioni, perché non ci si può consultare per giorni interi per decidere cosa fare a Natale, cioè il quadro epidemiologico è quello, quindi bisogna, un po' come è successo in Germania, fare un discorso chiaro al testo e dire bene, la situazione è questa, si va in quella direzione, perché questo tira e molla, questo giocare con i colori disorientando la popolazione sta creando, diciamo, uno stress psicologico oltre che economico di questo non sapere che cosa si può fare fino all'ultimo minuto, cioè, questo non è sicuramente una strategia vincente. Diciamo che non dovrebbe essere terreno di disputa politica o anche di propaganda politica quando si parla di morti, ma a me non è così, purtroppo a nessuno do colpe dirette, a nessuno assolvo, però finché la politica continuerà a mostrare i poveri nonni che poverini hanno bisogno dei nipotini, come faranno senza fare la cena con i nipotini, giocando sull'emotività, giocando sul fatto che in realtà le persone hanno bisogno di uscire, l'economia deve ripartire, è un problema drammatico, enorme quello che l'economia è ferma, però vorrei far capire e riflettere come con una pandemia in corso si possa pensare che la vita possa proseguire tranquillamente, e non voglio fermarmi alla vulgata molto rozza, molto superficiale, non più accettabile, tanto l'età media delle persone che muoiono sono 80 anni. Ci fermiamo per le informazioni della borsa. Melog. 800240024, sento adesso qualche ascoltatore, se ha qualcosa da dire, da aggiungere, domande da fare rispetto a quello che ci siamo detti con Nino Cartabellotta, che è ancora in ascolto, che è presidente della Fondazione Gimbe, che ogni settimana puntualmente da aprile fa un rapporto analizzando i numeri ufficiali del fenomeno coronavirus. Diego, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie dello spazio. Senta, io ho una domanda per il dottor Cartabellotta. Ieri, l'altro ieri, ho sentito che il saldo di quest'anno dei decessi in Italia sarà di 700.000 unità, quindi ho visto rispetto all'anno prima di quasi 52.000 decessi in più. Allora mi sono preso ieri sera un po' di tempo per andare a vedere, diciamo, lo storico degli ultimi 20 anni che l'Istat ogni anno pubblica, e ho visto che tra il 2014 e il 2015 vi fu un saldo di passività, cioè di eccesso di morti, di 55.000 unità. E ho visto che andando a vedere appunto la pubblicazione dell'Istat di quell'anno si attribuiva la cosa a una certa fisiologicità nel fatto che il virus influenzale di quell'anno non fosse stato particolarmente, fosse mutato, e diciamo il vaccino non avesse. Sì, ma sintesi qual è? Facciamo la sintesi della domanda, l'analisi l'ho capita. La sintesi mia, sì, gliela faccio subito. Volevo chiedere al dottor Cartabellotta, questi 55.000 decessi del 2015, di 5 anni fa, perché non hanno influito sul sistema sanitario in maniera così impattante come pare quest'anno questa emergenza ospedaliera abbia fatto? Cioè, questa gente che è deceduta in base all'Istat per problemi cardiorespiratori dovuti al virus, non per la temperatura o altre cause, perché 5 anni fa sono passati inosservati, questo più 12% rispetto all'anno prima di morti, è passato inosservato, sotto traccia, e non se ne è parlato? Attenzione, il dato non era solo italiano, era di tutta l'Europa occidentale, quindi riguardò proprio tutti i paesi. Diciamo, adesso sentiamo cosa dice Cartabellotta. A naso viene da dire, sì, perché se erano persone morivano per influenza, morivano a casa loro, non c'era l'idea generale di metterli in diretta. Sì, era la stessa fascia di quest'anno, stabiliva che era la stessa fascia di quest'anno. Over. Però la sintesi qual è del suo pensiero? Che ci sia dietro una grande contraffazione dei dati? No, che è soprastimato l'effetto del virus? Questo no, per capire... Glielo spiego, perché io conosco tante gente che lavora in ospedale, tra medici e infermieri, e nell'ospedale c'è un macello, quindi non è sovrastimato nulla. Tra un po' abbiamo la testimonianza di una nostra amica che se la sta passando piuttosto male, è un'operatrice sanitaria, ci racconterà cosa succede. La mia domanda... Vabbè, sentiamo Nino Cartabellotta se ha più elementi di quelli che ha intuito posso aver detto io prima. Nino, su quello che chiede l'ascoltatore, come mai in quell'anno ci fu un grande boom di influenza, nessuno parlò di reparti terapia intensiva o diciamo stressati, perché secondo me li tenevano a casa e finiva lì. Il problema fondamentale è che noi ci troviamo di fronte a una pandemia che ha come primo effetto collaterale quello del sovraccarico dei servizi sanitari, cioè noi abbiamo fatto saltare prima l'argine territoriale, poi quello ospedaliero, determinando poi di conseguenza un eccesso della letalità. L'esempio a cui fa riferimento il radioascoltatore è legato a un fenomeno che si distribuisce nel tempo più in maniera più omogenea, che ha sicuramente incrementato in quell'anno la letalità per l'influenza, ma non ha generato un sovraccarico analogo a quello della Covid sui servizi sanitari, quindi al di là di quello che poi è l'impatto assoluto sul dato di mortalità, non c'è stato, diciamo, questo elemento di sovraccarico, perché oggi il grande problema dell'infezione da coronavirus non è legata in termini assoluti alla sua gravità, ma al fatto che quando arrivano troppi pazienti, sia sul territorio sia in ospedale, i servizi sanitari si sovraccaricano e non riescono nemmeno poi a gestire nemmeno le patologie e le condizioni normali. Cioè, oggi uno degli elementi di cui ci si preoccupa molto anche rispetto a quello che è l'avvio della vaccinazione anti-Covid è che se noi abbiamo una quantità enorme di persone impegnate sul versante gestione diretta della patologia, dove troviamo poi tutti i soggetti che devono essere vaccinati, che devono vaccinare come professionisti sanitari o altro? Sappiamo che c'è un bando in corso, ma è in generale l'indebolimento da sovraccarico di tutto il servizio sanitario che finisce poi per determinare un peggioramento complessivo degli esiti, mortalità inclusa. Se così non fosse, non sarebbe stato affidato ai militari poi il compito in certi punti di organizzare la distribuzione del vaccino? I militari entrano in gioco quando c'è uno stato d'emergenza, rendetevi conto, normalmente non è roba di cui si occupano i militari, vedere persone in tuta mimetica, creare ospedali da campo, organizzarsi per la distribuzione del vaccino dovrebbe un pochino far riflettere. Bruno, buongiorno. Pronto? Sente? Sì, l'ascolto. Buongiorno, Nicoletti. Ma io volevo fare una precisazione, poi per darsi che sia anche sbagliata. La Germania ha dato quasi il 70%, chiamiamoli di ristori, a chi ha dovuto chiudere in lockdown, eccetera, eccetera. Sono state date delle mancette, che mi risulta personalmente. Non è che seguiamo la Germania, ma la Germania ha dato, ripeto, il 70%. Sì, però questo è d'accordo, è un altro ordine di riflessioni che non è l'interlocutore Nino Cartavellotta che si occupa di dati epidemiologici, però volevo insistere sul suo ragionamento. Questo ragionamento cosa porta a pensare? Cioè, l'Italia non ha le stesse disponibilità o capacità o strategia di dare dei ristori efficaci come ha fatto la Germania, quindi non deve chiudere, deve lasciare aperto, non deve... qual è il discorso? Me lo domando anch'io e non ho una risposta. Chiedo a lei soccorso rispetto alla sua domanda. È lecita la sua domanda, cioè la Germania può chiudere che poi compensa adeguatamente le persone. L'Italia non sta compensando adeguatamente le persone, quindi secondo lei cosa dovrebbe fare? Cercare di trovare fondi e dargli veramente i ristori. Perché oltretutto, se le attività chiudono e chiudono definitivamente, lo Stato poi non incassa comunque tra tasse, IVA, eccetera, eccetera. Il grande problema è quello: fai lo sforzo adesso per un futuro di un domani migliore. Poi volevo dirle anche un'altra cosa: io in un mese di dicembre ho perso 3 persone per Covid, chiamiamoli per Covid, ma sono stati ricoverati non col Covid, l'hanno preso negli ospedali. Sono decedute perché sono entrate per patologie diverse, non sto a spiegare, eccetera, eccetera. Non sono più tornate nessuna delle 3 a casa per Covid. Ecco, questo è interessante. Nino Cartabellotta, su questa seconda, sulla prima parte, se vuoi dire qualcosa, senz'altro, ma su questa seconda parte, che se manteniamo un'emergenza di questo tipo con situazioni così drammatiche, è chiaro che l'ospedale diventa anche un luogo di possibile infezione per chi non se lo sarebbe preso il Covid. Ma purtroppo dati sistematici sulle infezioni intraospedaliere da Covid non ne abbiamo. Certo è che se il numero degli operatori sanitari contagiati complessivamente oggi ha raggiunto quasi il numero di 70.000, diciamo, in tutta la pandemia, è evidente che in alcuni momenti e in alcune aree ospedaliere del paese l'ospedale rappresenta, diciamo, un luogo pericoloso, ma lo è sempre stato per le infezioni ospedaliere, tanto che da tempo noi sappiamo che stare troppo ospedalizzati per patologie, diciamo, poco importanti è un rischio anche di sovrainfezioni, soprattutto nei soggetti anziani. Purtroppo questo è un dato che, ribadisco, non essendo, diciamo, disponibile in maniera sistematica, non possiamo sapere quanto incide poi su quello che è il numero totale. Certo che arrivare a 35.000 pazienti ospedalizzati più 3.008 in terapia intensiva, ecco, ci sarà magari qualcuno che sia anche contagiato in ospedale, però penso che possano essere la parte minore, perché altrimenti il nostro servizio sanitario sarebbe veramente un disastro. Michele, velocemente, una domanda? Sì, scusi, volevo sapere come mai nella prima ondata ci furono tanti morti, anche perché gli ospedali erano al collasso, a un certo punto si diceva che dovevano scegliere tra chi curare e no. Per fortuna questa situazione in questo momento non c'è, e come mai anche adesso, che hanno detto che questa malattia perlomeno si sa da quale parte guardarla, mentre prima brancolavano nel muro, come mai nonostante queste due cose ci siano così tanti decessi, tra i più alti in Europa, tra l'altro in Italia. Grazie. Nino Cattavellotto, sì, una bella domanda. La risposta è sconcertante, mi immagino. Il radioascoltatore ha ben inteso che l'eccesso di tasso di letalità che abbiamo avuto nella prima ondata è stato condizionato in maniera importante dal sovraccarico ospedaliero, soprattutto in alcune regioni, quella della Lombardia. Ecco, per avere un dato, noi abbiamo avuto il 13,5% di tasso di letalità nella prima ondata, con picchi che in Lombardia sono arrivati anche al 18%, e quindi il sovraccarico ha giocato un ruolo importante. Nella seconda ondata noi siamo intorno all'1,8-1,9%, quindi quei fenomeni di sovraccarico non ci sono, però indubbiamente rimane da un lato quella che è un po' le caratteristiche epidemiologiche della popolazione italiana, quindi età media avanzata, ma soprattutto un dato meno noto, che gli ultra 65 anni in Italia rispetto ad altri paesi europei invecchiano male, cioè noi abbiamo uno dei tassi di aspettativa di vita più elevati alla nascita, quindi campiamo molto, però invecchiamo male, perché l'aspettativa di vita in buona salute e libera da disabilità degli ultra 65 anni in Italia è agli ultimi posti in Europa, ma è evidente che ci sono anche problematiche legate alla difficoltà della gestione ottimale sul territorio dei pazienti, che ovviamente arrivano probabilmente troppo tardi in ospedale, ma anche perché, questo bisogna dirlo, non ci sono cure efficaci per poter rallentare la progressione della malattia nelle sue fasi iniziali. Questo purtroppo è un traguardo che la scienza non ha raggiunto. Quindi è evidente che da un lato aspetti epidemiologici e dall'altro problematiche sanitarie continuano a far mantenere nel nostro paese un tasso di letalità così elevato. Bene, io ringrazio Nino Cartabellotta e so che come al solito ci lascia questa parte. Annuncio già che nell'ultima parte di questa trasmissione avremo un ospite. Ricordate, qualche mese fa, quando cominciammo a parlare di Covid, parlando categoria per categoria delle persone interessate professionalmente al contenimento del virus, parlammo anche degli operatori sanitari, e allora ci chiamò un'affezionatissima ascoltatrice, Dania Salomoni, che ci segue dagli albori, è venuta a tutte le nostre manifestazioni, a tutti i nostri meeting, è sempre stata dappertutto, e anche lei cominciò a raccontarci quello che ancora non sapevamo da fonti ufficiali, quello che accadeva negli ospedali. Oggi Dania si è presa il Covid e non credo che stia molto bene. Dania, sei in linea? Sì. Ciao Gianluca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Beh, già puoi parlarci, quindi resta un attimo in attesa, mandiamo le informazioni del traffico, poi ci racconterai cosa ti è accaduto, e la tua sarà una testimonianza esemplificativa di quello che accade a persone che fanno il tuo lavoro in questo momento. A tra poco. Melog 800240024. Vi ho anticipato Dania, perché Dania Salomone, chi la conosce, è uno dei punti, dei capostipiti del nostro programma in tutte le fasi negli ultimi 15 anni, da quando andiamo in onda con Melog su Radio 24, ci ha sempre seguito. Non c'è stata manifestazione, non c'è stata giornata speciale, non c'è stata chiamata alle armi in cui non fosse presente Dania. E anche nel caso in cui abbiamo cominciato a parlare nella nostra home edition di Covid, Dania, facendo l'operatrice sanitaria, lavorando in ospedale, ha cominciato a raccontarci quello che accadeva negli ospedali. Ha cominciato a raccontarci da marzo, quando ancora poco sapevamo. E oggi Dania si collega con noi, permettimi di poterci scherzare un po' su, ma fa parte del nostro rapporto, dal suo letto di dolore. A che punto stai? Com'è il saturimetro, Dania? Allora, il saturimetro stamattina segna 95, che diciamo che negli ultimi tre giorni è un grande successo, perché ha toccato anche livelli 90, e 90 è veramente poco. Quanto ti mancava da 90 al fatto ti mettessero i tubi addosso? Ma a 90 sono stata vicina a chiamare il 118, poi però con un po' di Ventelan sono riuscita a ripristinare la situazione e a tornare sui 93-94, che non è ottimale, ma insomma stavo già meglio. E sotto 90 sì, c'è bisogno di un aiutino di ossigeno, ma già anche a 90. Senti Dania, il tuo lavoro era in un centro Covid? Stavi lavorando in un centro Covid? Allora, io a marzo lavoravo in un centro Covid, perché lavoravo in un ospedale dell'area centro, provincia di Firenze, mentre in questa seconda ondata sono vicino casa, nell'ospedale della mia città, e lavoro al pronto soccorso, però anche lì abbiamo il percorso arancio, che è dedicato a chi arriva con sintomi che sono riferibili al Covid. E quindi tu hai avuto contatti sicuri con persone affette da Covid, e nonostante tutte le cautele che penso di protocollo devi usare, ti è arrivato. Come te lo spieghi? Ma io avevo avuto contatto stretto con persona con familiare positivo, e io feci il tampone e risultò negativo, e siccome noi sanitari con tampone negativo anche durante la quarantena possiamo andare al lavoro, sì, quindi il mio tampone era negativo, continuai ad andare al lavoro, però dopo due giorni la sorveglianza sanitaria mi richiamò a rifare un altro tampone di controllo, feci il rapido che è quello da 15 minuti, che in genere c'è poco attendibile, da molti falsi negativi, invece a me dette subito la positività. Quindi feci nuovamente il molecolare e anche quello confermò che ero positiva. Ti stanno però arrivando i saluti, scusa, lo devo dirlo perché mi stanno insistendo dal gruppo Telegram, Melog ha parlato, stanno tutti liqualizzati, saluta Dani e portagli il nostro saluto. Quindi grazie. In questo momento sentiti meno sola. Ecco, però ci dai un quadro realistico della situazione, perché ancora vedo persone arrabbiate che scrivono, dite cazzate, i numeri, l'influenza del 2015, ma cosa volete dire? Ecco, mi dici dal tuo punto di vista, adesso che stai a letto, passi le giornate col telefono accanto, pronta a chiamare qualcuno che ti porti l'ossigeno. Tu poi sei una ragazza, non è che hai 80 anni, avevi anche dei bei polmoni da quello che mi ricordo, quindi non è che eri una cosiddetta categoria di quelle su cui si può fare le spallucce. Ecco, cosa ti passa per la testa in questi giorni e come vedi giorno per giorno la prospettiva possibile? Cerca di farlo capire a chi ci ascolta. Allora, la prospettiva, finché io parlo per me, comunque è così, fino a quando non vedrò tampone negativo non potrò stare tranquilla, perché il Covid segue una politica tutta sua, non puoi mai abbassare le armi, perché io ho visto dei casi, venne in pronto soccorso un ragazzo giovane, 25 anni, nessuna malattia pregressa, non prendeva farmaci, niente, il ritratto della salute. Lui venne contagiato, era il 10° giorno, quindi dopo 10 giorni, ebbe solo un po' di febbre all'inizio, 2-3 giorni di febbre, poi non aveva più niente, nessun sintomo, quindi lui proprio disse: io pensavo ormai di essere arrivato, di aver raggiunto il traguardo, di aspettare tampone negativo, però di non avere altro. Al 10° giorno, così da niente, iniziò a desaturare sempre di più, fino a alla difficoltà respiratoria, al deficit respiratorio, e venne in pronto soccorso e fu ricoverato in medicina Covid, cioè aveva bisogno dell'ossigeno. Quindi, cioè, ecco qual è lo stress psicologico. Cioè, prima di tutto sto attaccato, cioè ormai ho la fissa di questo saturimetro che sto a controllarmi ogni due minuti, e poi proprio perché sei sempre sul chi va là. In questo momento sì, sono a 95, ma non è escluso che entro la serata potrei essere con la ventimasche o con il casco o addirittura intubata. Cioè, è una cosa repentina. Senti, come stai gestendo il tuo ragazzo, il tuo bambino, tuo figlio? Adesso non ho più memoria di quanto possa essere. Allora, ho due figli in casa. Allora, all'inizio eravamo in stanze separate, poi siccome siamo tutti e tre Covid ora, quindi possiamo vivere normalmente tutti e tre come prima in casa, non c'è più bisogno di stare isolati. Perché per il resto c'è chi ti aiuta, chi ti segue, chi ti porta la spesa, chi sì, pensa a te. Ho i genitori che vengono e mi portano la spesa, la lasciano fuori e poi io la prendo da fuori dal portone e poi basta, no? Stiamo reclusi in casa, non c'è da fare altro. Vabbè Dania, noi cercheremo di starti vicino e via via anche durante la prossima settimana ogni tanto ti facciamo una telefonata per sapere come va. Tieni duro e siamo con te. È servito che quello che tu hai detto per far capire che non è proprio tutta una grande passeggiata, non è proprio vero, che capita soltanto a quelli di 80 anni e quelli più giovani possono stare tranquilli. Dania, vi assicuro, è una ragazza, anche se ha due figli, e sembrava in perfetta, totale forza e salute, e oggi sta a letto tenendo d'occhio il saturimetro con la paura qualcuno possa venire e debba intubarla. Alla prossima.